cioè possono dare tutti i controlli che volete, senza filtri e senza nessun filtro. Va bene. Positivo, positivo. Va bene. Vado un attimo alla toilette, ragazzo. Ciao, sono qua. Io sono qua, ti aspetto. Sono arrivato un po' prima perché così mi faccio una guidata. Gavi! Dimmi Gianni. Lo sai che ha chiuso la gastronomia di via Lungomare? L'ho liberata io stamattina già. L'ho solo a roba in furgone. Mi dispiace, Gà. È anche brava. Era la mia collega questa. Sì, lo so. L'ho liberata io stamattina. Ho tavoli e sedie e quant'altro tutto in furgone. Capito? Sì, ho capito che l'ha liberata tu, dai. Roba nuova, l'ha preso un ragazzo di Porto Torres. L'ha preso un ragazzo e vabbè, speriamo che vada. Sempre gastronomia ha preso. Ristorante deve fare già, ristorazione. Ah, non è più gastronomia allora adesso. E poco cucina bene con la mia collina. Era bravissima anche. Gianni, devi controllare quel microfono però, è tutto positivo, però devi controllarti quel microfono. Sì. L'ho controllato 100.000 volte, l'ho sfruttato lo spray, le ho messo l'aria prima, poi ho sfruttato lo spray, l'ho fatto andare, poi ne ho sfruttato un altro po', niente da fare, non ho venuto di là, l'ho anche controllato i cavi, tutto quanto, se erano tutti a posto, almeno che sia spezzato il cavo all'interno. Positivo, può essere anche un cavo mezzo interrotto, Può essere anche un cavo mezzo interrotto, comunque provalo perché è un peccato, guarda, la radio è bella, il segnale è ottimo, controlla il microfono e sì, è una bomba. Bisogna che lo prema molto forte per non mancarmi la radio. Guardami, se non lo premo forte manca la radio, capito? Già lo so come fare, però a volte me ne dimentico. Già, devi, allora è la slitta quella, allora è la slitta. La radio è nuova, come fai se la slitta? È nuova la radio, l'ho usata poche volte. Lo so già, però magari qualche falso contatto può capitare. Adesso mi metto dall'altra parte, vediamo se mi ascolti sempre bene. Vai. Gavino. Vai. Adesso mi sono spostato, capito? Mi sono spostato. Vabbè, sta arrivando la mia compagna. Uguale a prima, Gianni. Ah, uguale, dai, segnale. Positivo già, uguale, sempre 9.30. E Radio Super 5. Gavino, sto ripartendo, dai. Positivo, dai. Tranquillo, ritorna a QTH e magari ci sentiamo dopo, ok? Ehi, ha fatto a mangiare, sei andato? Yes. Sì, sono tornato, ma tutti, tanto sei tu con la tua compagna adesso. Vabbè, non c'è problema, già posso parlare. Ah, positivo allora. Niente, ti accompagno a casa, vai. Ehi, vediamo un po' se riesco a arrivare fino a quel punto lì. Vai tranquillo, qua sei sempre 9.30, Radio Super 5 già. Cavagava, è una bomba questa antenna. Hola, Gavino. Sì, ci sono già. Stavo sistemando una cosa. E niente. Sì, è bella quell'antenna già, è bella. È che io sono un po' contrario a metterla nel furgone, ma lo uso. Si può mettere anche questa nel furgone, capi? È corta e va bene, e va di lusso. Sì, infatti, mi metto un pezzo di piastra su, diciamo, sulla cassa e si può andare bene anche quella. Ma stazionare sei 1-1 già? Sì, le stazionarie sono buone. Sì, se no non arrivi più con chi si segnale. Gavi, cosa ti stavo dicendo? Che non si può mettere sulla piastra. No, perché? Perché già la magnetica è detta tappata da un coso d'argento, se non è che la smonta. No, sulla... ti faccio una piastra sulla casa, capite? In modo una piastra in ferro con la massa, in modo che attacchi la magnetica. Ah, sì, così sì, perché è tutta una l'antenna, si avvita, capito? Si avvita la magnetica. Però io posso fare una piastra, posso prendere e attaccarle anche una piastra senza forare la cassa. Posso attaccarle la gossica flex, mandargli un cavo di terra, mandargli un cavo, no? Un cavo di massa alla piastra e prendere e fargli anche dei contrapesi sulla cassa, dato che li vede, e prendere e metterla. Appunto, si può fare anche così, capito? Tanto la magnetica attacca un bel. E a me è quello che mi interessa già, perché io a volte entro nelle strade anche dove ci sono alberi e sinceramente mi romperebbe le scatole prendere e rompere un'antenna. Qua proprio è una cosa che non accetto, quindi è meglio che per fare danni è meglio che me lo piazzo, però se trovo un giusto compromesso potrei anche farlo. Sì, infatti, non costa tanto e l'antenna che rende. Certo, caspita, è bella veramente, guarda, già hai fatto un ultimo acquisto, è veramente bella. Ma anche se la Turbo 2001 ha, cosa ti posso dire, due Santiago in più di ricezione, ma chi se ne frega, ma hai l'utilità, hai unito l'utile al dilettevole, cioè non hai un'antenna ingombrante in macchina, non devi avere la preoccupazione di fare di quello che è pesante. Poi se mi stai dicendo che è anche una cosa bellina, quindi va bene così, guarda, sono soldi spesi bene, e poi ti ho mandato il video, ti accorgerai tu di quello che ti sto dicendo. Cava, sì. E dove sei arrivato? Ancora non ci sono sulla 131, sono chilometri interni. Ah, positivo. Sei sempre più o meno all'interno, diciamo, verso Bancali? Sì, più o meno sì. Positivo, il segnale è sempre stabile, 9.20, come vai movimento sei da 9.15 a 9.25, quindi diamo 9.20 fisso. La radio 735. Hai capito? Adesso sto uscendo per la 131. Positivo. Come ti sto arrivando di lì, Gianni? Sempre tranquillo? Sempre forte e chiaro. Positivo, va bene. Ascolta, ma più o meno a che velocità poco fa, quando stavi parlando come, più o meno a che velocità eri? 110, 120. Ecco, se tu trovi una tratta, diciamo, con l'antenna, diciamo che non flette molto, che vai anche a 80, a una velocità di crociera, secondo me il segnale rimane stabile 9.30. Sì, se la zona è buona, penso che vada bene. Magari renderà forse un po' meno in mezzo ai palazzi, ma ho visto che anche nel Viotto lo rendeva bene. No, ma va bene, guarda, adesso in questo passaggio qua si è un po' calato di segnale, ma la radio è rimasta invariata. Sì, hai fatto alcuni passaggi a 9, alcuni passaggi a 9.20, però la radio è sempre rimasta bella. Tappa, adesso sono al semaforo di sport là, un po'. Positivo, no, ti accompagno, adesso ti, guarda, ti ho portato 9.20 di nuovo. Sì, dai, performante abbastanza. Eia, sì, va bene. Quando c'è movimento, siccome è un'antenna che magari legge il movimento, fa un po' diciamo dei ritorni negativo, positivo, però quello sta perché l'antenna è leggera. Magari la 2001 questa cosa qua non la fa, mi segue, ti dà un segnale stabile, però non interessa perché la radio rimane invariata, mi segui. Sì, Gabi, ho capito. Vabbè, ma il QSB è normale che ci sia. Sì, lo so, però ci sono antenne che lo fanno di più e antenne che lo fanno di meno. Magari la 2001, essendo un'antenna che prende, essendo più rigida, non dà questo problema. Ne dà altri peggiori, che si stacca, ti faccia la macchina. E se è un papù a capo, e se arriva pure a capo tannuvo. Infatti. Magari gaggidata cacchi altra macchina, cacchi moto che viene da rete, va di danno, poi. Sicuro era frustata, cacchi lui per il moto, ragazzi, mi segni in china. A tipo dice, ma te l'ho frustato, no, un'antenna di UCB che mi ha dato la frustata nella schiena. Cava. adesso mi sto andando verso Santos. E allora di lì sei in favore, dai. E Santos la nord. Positivo. Sta radio mi sta dando dei picchi strani adesso, vabbè, magari come sta scaldando. Ehi, yeah. Comunque sempre forte e chiaro, capiti, qua non ti sei abbassato niente, nemmeno tu, arrivi sempre bene, limpida e chiaro. Rocchetta, limpida la sorgente. No, prima si diceva Recoaro quando arrivavi forte. Recoaro, sì, oh Giulia, riesci a vedere. Oh, ma tu lo sai che forse riesci a vedere una cosa. Ora. Lo sai perché ti arrivavo forte? Perché stavo pompando. Ero a 30 watt, io lo rimetto normale. Perché questa qua la sto tenendo a 20 watt, capito, la radio, quindi non la sto tirando, non la tiro. L'ho rimessa di nuovo a 20 watt. Ma infatti non c'è bisogno, arrivi bene lo stesso. Sì, ma infatti mi l'ho messa di nuovo come era e ci. K. Esci che giro qua. Adesso vado verso Sant'Orsola. Sì, dentro Sant'Orsola, già si diciamo dove si è passato davanti a Cesaraccio. No, l'ho passato. Sì, ma sei passato davanti di lì a Cesaraccio. Cavagava. Positivo, sei diciamo per andare diciamo un altificotto 2. Eia. Ho capito, va bene, lì ci sono sempre palazzi già, non è che sei in campo aperto, e qua il segnale è sempre buono, 9:20. Guarda la destra il segnale, vediamo un po' che sono sopra il ponte, vediamo un po' come va. Sei sceso 9:15 adesso, sei sceso 9:15, la radio è rimasta invariata, però sei sceso 9:15. E allora non è favorevole questa zona per te forse non è favorevole, è più favorevole prima. E adesso comunque esco da Sant'Orsola e vado sulla Budibuti, vediamo un po', vediamo se va a mito. 9:40 mi sei arrivato adesso. Adesso sono uscito da Sant'Orsola e sto prendendo la Budibuti. 9:40 picchi positivi. Va bene. Sono contento. Sì, no, va bene, è alla grande, già, lasciala così che è tutto positivo, lasciala così che sia alla grande. Se è alla grande non ci sono problemi. Questa antenna me l'ha fatta conoscere Salvedio, che non l'avevo mai vista in vita mia. Sì, vabbè, l'importante è che ce l'hai, poi conoscere o non conoscere, l'importante è che ce l'hai già. Per quello non la conoscevo, Germania. Allora sei tedesco è un casino, già oggi sono un razzista. vabbè, grazie a te, di te se te li andi a me. Sì, no, scherzo, era una battuta. No, va bene Gianni. Bisogna, quarantena sarebbe, giusto l'altro giorno, secondo me, da fare una prova con la mini tu, con la mini turbo. Io non ne ho mini turbo, c'ho la turbo 2001, ne ho due. Infatti sono in vendita, se ne senti qualcuno dimmelo. No vabbè, già, quella lì te lo interessa a me, non è un problema, però al momento abbiamo altre priorità, mi segui. Vabbè, Gavi, se ti interessa una te la lascio, la te la vedi. Certo, no, vabbè, già, il primo che ti dà, diciamo, il senso di arrivi dare, non è che devi aspettare a me. Però quando io, diciamo, ho possibilità, o cosa prendo e ti chiamo, se ce l'hai, prendo, me la prendo. Ehi, Gavi, se mi dici che la vuoi, io te la lascio a parte, non c'è problema, tanto ne ho due. Insieme a quella fare, insieme al ragazzino. Chiava. Va bene. Io sono quasi arrivato a casa. Non so se mi stai ascoltando sempre bene. 9:30. Già va bene, Gavi. Più di così non si può. No, ma assolutamente, Gianni, risolviti quell'affare della dritta. Adesso non lo stavo facendo, però, già. Non lo stavo facendo, forse perché avevi il contatto con la leva delle marce. Forse perché avevi il contatto con la leva delle marce e lo stavi prendendo un po' amore a amore. Quindi, forse a furia di usarlo, capito, come lo muovi, poi non lo fa più. E allora usalo di più Gianni, mettilo più sotto stress, magari se va bene qualche radio di casa, portatelo su, magari così lo sfrutti, mi segui. Sì, adesso vediamo, adesso speriamo che si rimetta a posto, perché l'ho aperto già diverse volte, l'ho messo lo spray, no, ero fermo, capito, non c'entra nulla, c'ero fermo. E allora Gianni, portatelo su a casa e prova a utilizzarlo più spesso, magari quando ti serve te lo porti in macchina, perché a volte anche il non utilizzo dell'attrezzatura fa queste cose qua. Lo so, perché lo faceva anche con l'altro che avevo, l'altro che ho modificato, che faceva la stessa cosa. Lo vedi, perché poi la macchina è sempre più, diciamo, la macchina è sempre più esposta all'umidità, per quanto potrebbe essere nuova, ma in confronto a un QTH, diciamo, fisso, e ai... ha molto, diciamo, è più sottoposta da stridure queste cose qua, quindi prova a portarlo a casa e vedi un pochino se cambia qualcosa. Io se lo porto a casa l'attacco, tanto ho lo stesso attacco delle... anche l'attacco delle galassi, dai. Positivo, dove sei arrivato, luci gialle? No, sono arrivato a casa, capito? Sono già arrivato, adesso apro il cancello e... Positivo, il segnale del materiale è rimasto invariato e sei sempre 9.000 Gianni, e la radio è sempre positiva. Gira gira, arrivo meglio dalla macchina che da casa. No, guarda, dalla macchina arrivi forte Gianni, hai lo stesso segnale che hai da casa, la radio di casa è diversa, la verità, perché è molto più presente, molto più forte, però il segnale è uguale. E questo non mi può fare altro che piacere, dai. Già va bene. Va bene, capi, adesso ti saluto, se poi accendi dopo magari ci sentiamo. Sì, già, qua è acceso, e vabbè, c'è lo squelch un pochino alto, però per te non ci sono problemi, e tu arrivi, tu quando chiami arrivi. Non c'è, se sto cenando, magari dico sto cenando, e vediamo magari una mezz'oretta, tre quarti d'ora, e poi mai quattro chiacchiere le facciamo. Dai Gianni, buon proseguo, a dopo, quando vuoi sono in radio, ciao Gabi, ci sentiamo, buona carica, dai. Anche a te. CQ10, c'è qualcuno? Ciao Roberto. Ciao Gabi, ma c'è roba accesa dietro o ti sei tirato preso qualcosa? No, roba accesa. E senti, ma perché c'è la propaganda che sono russi, credo, non so, la lingua mi sembra russo o qualcosa del genere, canale 11 arrivano a bomba, 9.20, 9.25, poi sul 22 c'era qualcuno che stava provando qualche amplificatore accordando, c'era 9.30. No, è 3.668 sono. Ho capito, scusa? 3.668, mi sto ascoltando qua. Che radio c'hai tu? Diverso dal solito o sempre la solita? No, sempre la solita. Hai trovato qualche problema? No, la cosa sembrava più amplificata, forse faceva la porta aperta, sentivo voci dietro. C'è... Dai, aspetta. Manda aere, a roba, adesso tu la porta, dai. Ah, forse era la radio allora che ci avevi accesa dietro. Sì, ho il ricevitore acceso. Ma questo è il microfono, lo stesso dell'altro giorno o l'altro? No, è lo stesso. Lo Shure, quello che abbiamo provato l'altro giorno? Positivo. Scappa. Stai trovando differenze? Forse mi devo abituare ancora, mi sembrava diverso un altro microfono da quello dell'altro giorno. No, è buona la voce, però mi sembrava leggermente più carica di bassi. Sempre quello lì sto usando sempre quello, e niente, mi faceva, come è sorreggiato, mi ha fatto le connessioni all'MC80 e all'ICOM, vuoi sentire? No, lo sai cos'è questa? Adesso ho notato, ho sollevato il volume e si è ritornato giù, era basso, veramente questo altoparlante dello Yaesu non rende a bassissimo volume, ho dovuto sollevato e si è ritornato giù normale, dai, fammelo sentire lì come. Ci sei Robert? Prova a parlare. Guarda un po'. Guarda un pochino come arriva questa radio. No, sembra che stai parlando dentro un tubo. È chiara, sì, comprensibilissima, però non c'è confronto con l'altra, l'altra è un'altra categoria. Sembra che stai parlando dentro un tubo, probabilmente vuole affinata meglio con un microfono. Positivo, e questo è l'inizio 80 con l'Incomuni C737. È carente di bassi, molto ricca di tonalità medie, sembra che stai parlando dentro un ambiente, un tubo qualcosa, è intubata un po'. Vabbè, queste qua 27 non sono questo granché. Dai, accendo, dai, ripasso all'altra di nuovo. Probabilmente è più amplificata, più forte, però l'altra è più naturale. Sì, è più forte dell'altra, tu dici. Cosa hai detto? Che è più forte dell'altra, tu dici. La sento un po' più distorta, però diciamo l'altra è molto più chiara come modulazione. Sembrerebbe più alta questa, però probabilmente non è detto perché mancano tutti i bassi, magari ti sembra un pochettino più penetrante. Wow, ho abbassato il Mac Gain, adesso è a mezzogiorno, vedi un pochino. No, il livello già va bene, però l'altra è meno fastidiosa, questa è molto penetrante. L'ho capito, cioè il contrario, in pratica dovrebbe essere penetrante l'altra e meno fastidiosa questa. No, devo stare attento a quello che dici, perché non è, diciamo, ti dà fastidio, dai, perché entra molto, questa va bene secondo me per i DX meglio dell'altra, però l'altra è più salottiera, più naturale, mi piace di più l'altra, ma il problema è la radio secondo me. Sì, a passo all'altra allora, dai. Il K è 11 metri, non c'è per nessuno. Dai, sono passato al K. Questa è un'altra categoria, è molto più. Magari quell'altra ha un pelottino più forte, però devo dire qua non c'è confronto. Cioè, invece di essere più forte il K è più forte l'ICOM. Cioè, assurdo. Ma magari è un'impressione acustica di orecchio, però ti dico è più fastidiosa, è più squillante, però non è lineare come modulazione. Questa invece è pulita. C'è tutto, dai bassi, medi e gli acuti. L'altra è come che tu stai parlando, quando ti metti una trombetta in bocca e parli dentro una cosa del genere, è un po' più fastidiosa. Positivo. Va bene. Niente, questo qua è quello che abbiamo provato l'altra notte, è sempre la stessa regolazione, sempre la solita minestra. No, questa è perfetta, è ineccepibile, nessuno può dirti niente, è veramente bella, pulita, bella, corposa, come piacciono a me, è utile che ti scarichi di fischi, cioè attenuazione di bassi e spari mari sugli acuti che te ne penetrano nelle orecchie e ti dà anche fastidio. Qua puoi parlare tutto il giorno e non infastidisce a nessuno. L'altra invece un pochettino deve abbassare il volume perché ti dà un po' di fastidio. È positivo. No, poco fa ti stavo ascoltando. La modulazione è un po' nasina. Ma dove? Nella cabanna? Positivo. Mi permetto di dirtelo perché lo sai. Era un po' nasina. Un bel po'. Ma fammi capire, nelle V o nelle HF? V. Perché hai preso, diciamo, il processore inserito, io li posso anche manipolare, però non ho mai toccato niente, l'ho lasciato così e basta. Di lì sto utilizzando l'MC60, c'ho altre opportunità di microfoni, però ho visto, almeno mi avevano detto che sul 60 andava un po' meglio, perché all'inizio mettevo la Dunis, poi avevo messo l'MC50, l'MC85, però siccome c'ha l'equalizzatore, quell'apparecchio, il TS2000 c'ha l'equalizzatore, ma sinceramente non è che intanto facciamo in ambito locale, non facciamo niente di più. In FM, in HF mi interessa farmi sentire, per cui l'ho caricato un pochettino di acuti in modo che è più penetrante. Però devo dire qualitativamente non è un granché il TS2000 come HF, come modulazione, e il 940 li fa 10-0, mi sono ascoltato, infatti quando attacco il 940 se ne accorgono dalla modulazione, come ascolti una valvola, un transistor uguale, la voce umana in transistor non è paragonabile alla valvola. Comunque hai fatto bene, ti ringrazio che mi hai detto che c'è qualche così, magari se riesco a mettermi il monitor, magari cerco di avere una, diciamo, una qualizzazione un pochettino più naturale, dai. Molto nasina mi ha detto. Sì, come effettuare un po' su, non so, io se non conosco il 2000, non so come è fatto, però dovessi accentuare, allora fino alle medio alte ci sei, però dovessi accentuare un po' più diciamo dai 4 ai 10.000, dovresti un po' accentuarle, con le basse ci sei, però rimane nasina di medio basse, mi segui? Se un po' capito, in confronto agli altri che sono molto molto lineari, molto lineari, tu rimanevi un po' più forte ma nasino. È probabile, lo sai, il processore ti sporca tantissimo, io non lo stacco, ma qualcuno me l'ha detto che è molto, molto penetrante, ecco, il processore quando siamo così vicini, soprattutto quando ci sono segnali molto forti come li possiamo ascoltare in vicinanza, e qualche volta lo toglievo, infatti qualcuno diceva no, ti dai fastidio, però anche per mandrolina l'ho lasciato attaccato il processore, però si può, diciamo, ottimizzare mettendo, utilizzando l'equalizzatore, c'è la radio, l'equalizzatore sia in ingresso che in uscita, sia in ascolto che in trasmissione, però non è che mi sia mai avventato di tanto, tanto è una radio adesso che la sto utilizzando così per qualche mese, dopodiché parto con quella col 3000 che è tutta un'altra, un altro giocattolo, non c'ha niente a che vedere con questa, però ho la comodità che ho insieme sia le VHF un quadribanda, le 50 MHz e più le HF, per cui c'è tutto dentro una radio, non deve stare ammattanati, c'è il doppio ricevitore, posso metterle due in contemporanea, c'è quello di comunità anche sui 2000 e basta, per il resto c'è tanto di meglio, dai, c'ho altre possibilità, comunque ti ringrazio di nuovo per le cose, per le osservazioni molto costruttive, vai di nuovo Gabi. No, io mi sono permesso proprio perché so che tu sei un appassionato, quindi ci tieni a essere una persona perfetta in queste cose, io ascolto, quindi ho notato questa cosa. No, allora da precisare, non è che è fastidiosa, non è una cosa fastidiosa, è una cosa che non si adegua a, diciamo, a, che non si adegua a quella banda lì, cioè non sei sulla 27 che magari devi pompare, devi fare, che poi una cosa è, che metto tra parentesi, non è una modulazione lineare, non è una modulazione lineare, dovresti più che altro accentuare più le altre frequenze che le medio basse. Va bene. Una curiosità, dove va, tu che lavoro fai? Ambito riparazione auto. No, positivo. No, pensavo che avevi un'officina metalmeccanica. No, facciamo anche altre operazioni, però principalmente riparazioni auto, dai, questo è il lavoro diciamo fondamentale, adesso li facciamo così, piccoli italiani, cose leggere, per il momento, perché stiamo già preparando, predisponendo per la meccatronica, ci sono mini putti che loro si occupano di questo, dai, stiamo prendendo un'altra ala dell'officina che era chiusa per fare quel tipo di lavoro. Ma tu lo sai qual è il mio vero lavoro? Qual è il mio vero mestiere? Il tuo nuovo mestiere? Il mio vero, il mio, quello che ho fatto da sempre, dai, il mio vero, la mia vera qualifica. E buco, non lo so, dimmelo. Io sono tubista, non cubista, ho tubista, io sono tubista. Io sono stato moltissimi anni, sono stato 13 anni con la Sicces, a Provo Torres, e quindi io sono tubista, ho fatto anche paesi arabi. Quindi anche se salvatore, mi immagino. No, salvatore è un parolone, si punta, quello sì, TV, tutto, filo continuo, saldo ad Argo, saldo da Unio, però a livello casareccio. Poi sono tubista industriale. Sia metallo che materiali plastici. Positivo. Capa, noi abbiamo il cannello ad aria calda. Adesso abbiamo qualsiasi tipo di plastica con un cannello ad aria calda e ce l'aveva fatto conoscere questo amico di Porto Torres, che lui lavorava a Petrolchimica e facevano le tubazioni, le giunzioni, tutto quanto, le riparazioni li facevano con le bacchette, anziché usare il metallo utilizzavano la stessa qualità di plastica e facevano saldatura. Questo stiamo parlando di non meno di 20-25 anni fa, e poi lo stiamo portando nel seguito, lo stiamo utilizzando, forse siamo tra i pochissimi in carrozzeria che usano, perché gli altri usano dei sistemi di pasta per incollaggio, graffette e cose, invece noi saldiamo proprio, facciamo la fusione del materiale. E tu facevi anche quel tipo di operazione o che cosa? No. Allora io qualche saldatura a cannello l'ho fatta, però sempre in abito del ferro, del cromo, queste cose qua, sulla plastica. classica, sulla classica, quando fate due tiri in bianco si usa nei raccordi, mi segui? Non è che usi i raccordi, quindi mai fatto questo tipo di operazione. Vabbè, sempre una bella qualifica, va più che bene. Poi dov'è che ti è iniziato a entrare nelle orecchie l'audio invece? No, vabbè, l'audio l'ho sempre fatto. Io guarda che l'audio andavo da ragazzino per come passione, come secondo lavoro. Io l'audio l'ho sempre fatto, io lavoravo fino al venerdì sera, poi andavo a fare service. Vabbè. Tu stai parlando con una persona che ha sempre lavorato da lunedì a lunedì, capito? Beh, io ho capitato di vedere la serata e andare a lavorare. È importante che le cose vengono fatte con passione, non per costrizione o per obbligo, perché è brutto quando fai un lavoro che lo devi fare perché sennò non mangi, quella è la cosa più brutta. Però se fai un lavoro che ti piace, come mi immagino che ti piaccia questo lavoro degli impianti audio eccetera eccetera, service, è la cosa più bella. Sono sacrifici, perché mi immagino di lì non hai orario, finisci quando gli altri vanno a coricarsi, tu stai iniziando a lavorare perché devi smontare eccetera, e domani mattina devi partire di nuovo, non hai orari, lo so benissimo cosa significa una cosa, però quando lo fai con passione diciamo ti stanchi meno. Di nuovo a te. Sì, no, vabbè, io poi vedo con la Cice, se poi facevo fine settimana andavo a fare, c'avevo questa passione qua, io l'ho sempre fatto, poi hanno chiuso, come ben sai, se conosci la ditta, ho iniziato a fare il mio lavoro, ho iniziato a fare il lavoro che faccio adesso. Ho iniziato a fare proprio a prenderlo come mestiere. Però vabbè, a me non mi pesa. A me quello che mi pesava era che poi ho iniziato a fare trasferita, ho fatto paesi arabi, sono stato a Dubai, ad Abu Dhabi, al deserto del Ruwais, Sattarif, ho fatto il Golfo Persico, ho fatto dal 2007 al 2011 sempre in trasferta. L'ultimo cantiere che ho fatto di coso è stato all'Intermare Sarda, l'Arbatax, e poi ho detto stop, finito, perché non avevo più voglia, basta, non c'erano più soldi per fare quel lavoro lì, quindi, perché quello lo facevo proprio per lavoro, a me se non mi pagava non andavo, e niente, poi io, diciamo, è finito tutto, finita l'esperienza, e abbiamo iniziato a fare questa attività qui, proprio come lavoro, non come passione. No, è interessante, io da ragazzino sono sempre stato appassionato, da quando ho avuto 13-14 anni, i primi serio, le prime cose, poi piano piano ti evolvi, ti informi eccetera eccetera, una passione. Una carissima amica mia che si è laureata quando 2 anni fa, tra l'altro faceva, siccome in cosa, scelte cinematografiche, si è laureata qua. E abbiamo un'università all'avanguardia in Italia, questa non è neanche italiana, tanto questa mia amica era di fuori, e l'unica in Italia, insieme c'è un'altra a Bologna dove fanno questi laboratori di cinematografia, lei era già regista, diciamo fuori all'estero, ha fatto un sacco di operazioni, di attività sia in radio che in televisione, e io gli ho dato una mano anche per il corso, e lei mi ha detto negli impianti quando faceva l'audio, la parte audio, lei era un po' in difficoltà, tra l'altro anche un po' per la lingua, certe parole erano un po' difficili per lei. Quando gli davo gli aiuti, dice cavolo, tu sai più di quello che mi sta interrogando a me, dice perché non ci vai tu? E infatti è un desiderio mio, quando sarà, perché me lo sono promesso, quando sarò magari, se arriverò a una certa età, ma lo voglio prendere una di queste lauree, queste triennali, nell'ambito che mi interessa a me, l'argomento interessa a me, perché sono già un po' addentrato, poi ti informi meglio, ti fai gli esami, ti prendi anche per orgoglio per il personale, ed è una promessa che mi sono fatto, non tra un anno, tra 10 anni, tra 20 anni, non lo so, però però mi sono promesso di fare un ambito, diciamo, audio, tipo una laurea, quelle lauree brevi, triennali, sulle, sul coso, sulle telecomunicazioni o cosa del genere, sulle scienze delle telecomunicazioni, dopo c'è anche ambiente audio, eccetera, eccetera. Di nuovo a te, la fonia, tu dici? Sì, sì, un po' di tutto. E tocca anche l'ambito elettronica, diciamo, telecomunicazione, perché lì è abbastanza ampio, perché c'è anche il discorso di, oltre che ambito audio, cioè di studiare tutto il discorso del campo audio, però si parlano anche, ci sono scienze delle comunicazioni, c'è anche i contatti umani, per dire, tipo speaker, per dire quando devi parlare, seguire certe regole, eccetera, eccetera. È sempre stata la mia passione, ogni tanto, infatti, la piccola radio privata avevo di lì e mi divertivo, mi sono sempre divertito. Poi il discorso dell'hi-fi, eccetera, eccetera, sono state sempre le mie passioni, informarmi di risposta a frequenza, tutte queste cose, tutti gli argomenti tecnici, sono state da ragazzino che sono sempre piaciuti, ed è una cosa, un argomento che mi piacerebbe magari approfondire, magari prendete anche un titolo. Sì, guarda, noi quella roba lì, noi, vabbè, ci sarebbe roba da parlare per 20 anni di questa cosa qua, perché sull'armonia, su, diciamo, sulle frequenze, perché molti pensano, ma i microfoni vanno su radiofrequenze e radio, quindi su, poi ci sono tanti settori, per esempio si va sul PA, sul poi ci va, per esempio, se vuoi fare, io te la metto in parole povere, sulla fonia, sul tecnico, diciamo, audio e luci, perché tu fanno anche audio e luci. Io più che altro mi sono formato sulla meccanica audio, diciamo meccanica audio, ti spiego, sui cablaggi, sui tarattoni PA, su, diciamo, configurazioni degli amplificatori, sulla configurazione diciamo sulla meccanica degli altoparlanti. Io mi sono più che altro formato su quello, a me quando io, per esempio, non sono un fonico, però lavorando insieme ai fonici un po' di infarinatura ce l'hai, però la mia vera, diciamo, il mio settore è, diciamo, la meccanica audio, cablaggi di altoparlanti, cablaggi di impianti PA e di tutti gli impianti audio possibili e immaginabili. Su queste cose qua io posso affrontare, perché vabbè, tu sai che a livelli quasi di come lavoriamo noi, di come lavoro io, hai a che fare non con, diciamo, non con ciarlatani, ma a che fare con ingegneri. E quando ti arriva un ingegnere, per esempio un atto su un fonico dei nomadi, e ti vede montato un impianto e non ti dice niente, ti dice, caspita, bella configurazione, cardio da cuore, con ritardi di delay, con ritardi già fatti dai finali, con front già montati, con angolazioni gradazioni di diffusori in aria, e quello è già ripagato. Poi parlando ti dice, ma lei ha qualche titolo? No, non ho nessun titolo. E rimangono un po' così e dicono, ma è impossibile. No, è possibile. Non ho nessun titolo, è solo informazione, passione e anche tanto studio a parte, perché quando io la notte prendo studio tanto. Io la notte studio tantissimo. No, ma immagina, poi se c'è passione lo fai con passione. Anche io tutto quello che so è anni e anni di letture, informazioni, domande, chiedendo a gente più informata, confrontandoti con persone che ne sanno più di te, chiedi domande. Io sono molto cosiddetto chiedone, argomenti. Tu sei, diciamo, il cosiddetto carpentiere audio, quello che fa fisicamente, mette tutte le cose nell'impianto quando si farà l'operazione acustica, dalle casse figli, eccetera, eccetera. Ma piace anche quello un po' meno, diciamo, perché è un po' lavoro più settoriale. A me piaceva più fare tipo il funico, controllare, ottimizzare, eliminare, per dire, quando ci sono imperfezioni acustiche, ritardi, eccetera, eccetera. Quello lì è una passione, infatti quando avevo, mi divertivo col mixer, diciamo, quelli un po' più serio, perché c'aveva un mixer, diciamo, a livello molto semplice, e ti divertivi, entravi, facevi quelle cose lì, è sempre stata una passione. Infatti mi fermavo sempre al reparto mixer io, quando avevo la possibilità, quando c'erano i tecnici, per vedere un pochettino come lavoravano, vedere che tipo di apparecchiature avevano. Adesso come è tutto digitale, lavori col computer, schiacci, vai, eccetera, eccetera, in modo molto più semplice, più efficace. Mentre prima il vero funico, cavolo, faceva tutto a orecchio, vedeva, si tremava, sentiva, c'erano delle orecchie di pipistrello, e riusciva a valutare tutte le imperfezioni e cercare di migliorarle nel migliore dei modi. Di nuovo, Gabriele. No, vabbè, io fonico, a parte questo, vabbè, il fonico non piace neanche, perché ho lavoro monotono, fai sempre le stesse cose, alla fine è sempre i soliti parametri. Se tu fai, diciamo, il, come hai detto tu, dice sì, il carpentiere, diciamo, l'installatore, il PMN, detto in tecnici, detto in termini tecnici, il PMN, come posso essere io, che poi io faccio gli ulli, robe, io mi carico i mesi, guarda, io mi carico i mesi. Faccio tutta la lista, perché ti mandano la line check, ti mancano tutti, guarda, ti marcano tutto, prendono, ti mandano tutto quello che gli serve, quindi capano, ti carichi tutto, prepari il camion, lo fitta a me, le trova il camion già carico, addirittura con olio e acqua controllati. Poi arrivi lì, piatti il ring insieme a un altro ragazzo di Sassari, che è molto bravo, ma lo conosci pure, piattami il ring, lui si monta le luci, perché lui fa il lucciaio, io mi monto il PA insieme a un aiutato, insieme a un collaboratore, lui lo stesso vuole con le luci, e poi arrivano i fonici in valigetta, arrivano i fonici in valigetta, e fanno tutto loro, ne fanno tutto loro. Tu sei nascosto, e niente, fanno la serata. Trovi quelli che ti dicono grazie, trovi quelli che prendono e ti sputano in faccia. Smonti, torni a casa e ciccia. Vabbè, comunque il lavoro è quello, e siamo, diciamo, all'avanguardia, la professionalità è tutto, perché poi alla fine, quando dico sì, ma chi ha montato questa roba, vedi, guarda dietro il palco, trovano a te, ti dicono bello, ti toccano la mano, ti dicono bravo, complimenti, non da stupidi, ma ti ripeto, da ingegneri e da persone qualificate. Lo prendi, Robert? A me sembra ombre, avanti che voleva entrare. Chiamate. Oh, sono Gianni, dai, non so se mi state ascoltando. Ma hai fatto tu break, Gianni? Ho fatto io, solo che sto provando un microfono che non sta andando bene, dai, voglio provare a vedere se funziona. Ma a parte mia sta andando bene, non è nessun problema, chiedamate a Gavino, avanti Gavino. Ciao Gianni, buonasera. Ragazzi, è pronto il mangime, devo andare. Gianni, riprendo dopo cena, penso tra un quarto d'ora, un'oretta, e riprendo. Ciao Gianni, ciao Roberto, sentiamo dopo, se coincide. Ehi, non so se ci sono io, comunque ti saluto già in anticipo, buona cena e buon tutto, e buona giornata se non ci avremo modo di sentirci per domani. Vai Gianni. Ehi, ciao Gavi, dai, ci sentiamo magari dopo, dai. Se Roberto si trattiene fino a quando arrivi tu, già va bene, dai. Se no ti aspetto, dai. Infatti io sono qua al telefono e stavo provando questo microfono, le 3009, come va? Dani, la voce è comprensibile, però mi sembra un po' nasina, sinceramente. Non è eccellente, è sufficientemente buona, però non è eccellente. È chiara, però la sento un po' nasina, chiusa, dai. Forse è perché l'ho avvicinato troppo, guarda adesso. No, anzi è peggiorato adesso. È un po' fischiante, si sente, soffiante, dai, non è corposa con modulazione, è ricca di medi, pochi acuti e niente bassi. KK, va bene, dai. Questa qui è con una radio che dico io, va bene. A parte stai andando a colpi, ci stai andando a tratti. Non lo so. No, sta uscendo a tratti già, controlla qualcosa. Non so cosa le abbia prese, boh. Stasera ha cominciato così, poi l'ho smontato, ho pulito PTT, gli ho messo lo spray per contatti, l'aria per pulirlo, poi ho messo lo spray, niente, stavo provando a vedere se andava. Ma non hai amplificato questo microfono? No. Ah, vabbè, l'altro per quello Mario, un pochettino, per di qualcosina, no? Rispetto a Gavino, vabbè, lui c'aveva un altro tipo di radio, c'era un abisso, la sua era bella corposa, infatti ha adattato il microfono della Shure professionale, ha trovato il giusto abbinamento, abbiamo regolato i livelli, mi sembra avanti ieri, se non sbaglio, e va benissimo. Si nota la differenza, ripeto Gianni, la radio è comprensibile, chiarissima, però ti ho sentito meglio in altre situazioni. Questo qui non è di questo fatto, l'ho portato solo per farlo andare, perché forse l'ho lasciato in macchina e c'è entrato umidità nella... No, già sei tutto a tratti, tutto un sacco di rumorini. Adesso sto scendo a tratti, guarda, sto premendo forte, vediamo un pochettino. Questo qui me l'ho dimenticato in macchina e praticamente è entrata umidità nella capsula. Quello è un problema importante, non so se riesce a risolvere, cioè ce l'hanno in coso, il materiale plastico, il trattutore, magari non gli fa niente, ma se sono quei materiali che sono delle tipo cartacce, se l'hanno veduto già. L'ho soffiato con l'aria, vediamo un po' se riesco a eliminare l'umidità. No, ma non tanto dopo, una volta che si è deformata la cosa, non è l'escursione, non è lineare, è come un altoparlante, è deformata, il traduttore è deformato, per cui quando tu si muove, diciamo, cosiddetto movimento, chiamiamolo movimento della membrana, non è lineare, ti fa queste cose, questi difetti, che non è la modulazione, non è impeccabile. Vabbè. Me ne rendo conto se esce o no, è perché sto guardando. Adesso sto uscendo sempre. Sì, adesso sei uscito. Vabbè, lo devo usare un po', perché secondo me di rimanere in macchina, che è successo quello. Magari anche se la macchina è nuova, un po' di umidità c'è sempre con questo tempo qua. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Dove è Luca? Buonasera. Ciao Roberto, Gianni, se non erro c'è Gavino, se non erro. Sì, ero all'ospedale da mamma, da. E la stanno facendo la colabrodo, poverina. Però a quanto ho capito mi sa che c'ha la bronchite. Abbassa la radio, sei un bel forte. Cosa c'ha, già, scusa già, mi ha detto tutti i nomi. Luca, cosa c'ha tua mamma per caso? Roba, ho avuto un problema per quanto riguarda il diabete. Praticamente gli ho trovato il diabete a 31, perché stava andando male. Allora ho chiamato subito l'ambulanza, è arrivato il medico a bordo, la Mike 01, che già li conosce bene, e niente, adesso è ricoverata, è sotto osservazione, da. C'è anche l'ossigeno adesso, casino, un casino. Diciamo, la mamma è un rottame, avanti, ripeto, vabbè, fai girare. Ma come mai? Ma questo è avvenuto di colpo. Aspetta Roberto, non ho capito, scusa. È avvenuto di colpo questo problema, o c'aveva già altri problemi? No, la mamma è diabetica, però non gli è mai scesa così alta, sì, 400, 500, però così bassa. Ha rischiato di morire. Avanti, Gianni, riprendi, fai girare per Gavino. Gavino è andato a mangiare lui. Gianni, stai uscendo a colpi. Oh. ho detto capito, andate a mangiare, e io secondo me è dovuto a quella pastiglia che gli hanno dato in più, non ci voleva quella pastiglia, lei doveva solo limitarsi dal mangiare, ma quella pastiglia non ci voleva, gliel'ha fatto scendere troppo. E ogni tanto è bene fare controlli e ripetere tutte le analisi e farlo vedere magari anche a un altro consulente per non sbagliare, perché un amico mio là nel Rinaldo a Giuma è un muri, la pastiglia per il cuore gli hanno tolto, dice non riusciva a respirare, cioè sempre affaticato, come gli hanno tolto la pastiglia, questa pastiglia, dice io sono Rinaldo, dice ero sempre affaticato, facevo due gradini e ero con la lingua fuori, perché era il dosaggio sbagliato, gli hanno cambiato il coso un altro medico e lui dice io sono Rinaldo. Vabbè, mia sorella è morta perché non gli hanno riconosciuto che aveva diabete insipido, l'abbiamo trovata in coma, è stata per 4 anni e poi è morta, capito? Perché chi la stava controllando gli ha detto che praticamente era dovuta al nervoso, il fatto che beveva troppo, lì si lamentava sempre che beveva tanto, e gli ha detto che era un fattore nervoso, che magari aveva problemi, gli ha detto io problemi non ne ho, e grazie a Dio sto bene, sono tranquilla, però non gli hanno riconosciuto il diabete insipido, quello lì me l'ha detto il dottore della rianimazione, che con una pastiglia sarebbe campata una vita, e se non se la sentivano loro e non capivano che cosa avesse, la dovevano far ricoverare, invece non l'hanno fatta ricoverare, l'abbiamo trovata riversa sulla vasca da bagno con la testa sulla giugulare che premeva sulla vasca da bagno e non gli è passato ossigeno al cervello e è andata in coma. Purtroppo mamma mia, anche questo giorno mi ha raccontato un medico, un neurochirurgo, di certe situazioni di gente incompetente da arrestare, mi ha raccontato certi episodi di gente che hanno rovinato, cacchio, però per non intervenire, poi quando ha visto la cosa dice ma non vi rendete conto cosa c'è su questo cervello che non sta arrivando, il pompaggio del sangue non sta arrivando, e ne ha salvato uno e l'altro purtroppo non ci sono riusciti perché era già arrivato, dice ma non vedi questo attacco, te la devi leggere l'attacco, non sono riuscito a decifrare l'attacco, perché ci sono tante persone, diciamo purtroppo ci sono i medici bravi e anche i medici meno bravi, e non è riuscito a leggere il problema, questo vuole intervenuto subito, bisogna operarlo d'urgenza, uno l'ha salvato, l'altro purtroppo l'ha bloccato, tutto paralizzato, ha perso parola, tutto arruinato, è diventato un vegetale. Vabbè, cambiamo argomento, mi dispiace Luca per tua madre, speriamo bene che si riprenda al 100% senza nessun problema, comunque fallo vedere adesso quando all'ospedale gli faranno tutti i controlli diagnostici e sarà sicuramente seguita, meglio tenerla lì qualche giorno così vedranno di intervenire nel migliore dei modi. Riprendi Luca. Sì, ma infatti dai, purtroppo la stanno facendo con la brodo, vabbè. Poi gliel'ho fatto anche l'emogas, quel lago bastardo lo devo inserire lì nel polso, che fa un bel male, infatti la sentivo ieri, mi sa, sì. Ma che cosa brutta, cazzo. Non mi ci sarei voluto al posto suo, assolutamente, perché io gli aghi temo un bel. Mamma mia, vabbè, dai, speriamo bene. Avanti Gavino, riprendi. È a cena Gavino. Ah ok. Che diabetico lo sa. Comunque ho visto che ci sono persone molto molto anziane, molto. Aspetta, in reparto, adesso non mi ricordo. L'avevo detto già che reparto era. No, non me l'hai detto. È sesto piano. Non mi ricordo. Comunque è un reparto brutto. C'è visto un signore anziano, c'è un bel di anni quello, un bel, io penso ne ha oltre gli 80 e più, e c'ha il tubo nel naso. Nefrologia stai dicendo Luca? No, sesto piano, no Robè, no. Vabbè signore, io vi devo lasciare però adesso, dai, ci saluto, grazie del questo, auguroni per tua mamma Luca, dai, che si rimetta presto, dai, ci sentiamo, ciao Gianni, anche a te qui, eventuali amici qua su canale 10 nascosto, io interrompo le conversazioni, ciao ciao. Ciao ciao Robe, ci sentiamo, buonanotte, avanti. Ciao Robe, alla prossima, saluti. Sì, un casino già, su quel reparto un casino, speriamo bene, dai, che ne esca messa a posto. Purtroppo mamma ha troppi acciacchi, è forte, poi c'è questa tosse ancora, quella è una bronchite, non ho curata, c'è questa tosse allucinante, gloria. Meno male che non sono come ero qualche anno fa, che sono ben ansioso, adesso io sono più tranquillo. Vado tranquillo, se no, perché sennò è un casino, non ci riuscirei ad andarci, stavo male. E vabbè, no. Passerà. Se Dio vuole passerà. Sì, da, non è niente di grave. Ma la glicemia mi è risalita. Abbiamo misurata davanti a me l'infermiera e ce l'aveva a 168. Ma allora già va bene, dai, la glicemia è salita tranquillamente. Ma quella pastiglia ancora gliela stanno dando, quella che gli ha dato in più. Esatto, gliela stanno dando, sì. E allora lei che ha mangiato poco. Aspetta, c'è un attimo, stiamo leggendo, scusa, perdona, stavo ascoltando un messaggio. Ho detto, qualche motivo ci deve essere se gli si è abbassata così. O è lei che ha mangiato molto poco e ha preso tutta la roba, si è fatto le stesse, o tu gliele fai, non lo so, le stesse unità di insulina, ha mangiato meno e quindi praticamente gli si è abbassata troppo. No, allora, ti spiego, prima ce l'avevo sempre alte, capito? Volte 200, 280, 260, 270, molte volte 170, dipende. Poi gli hanno aggiunto, il medico gli ha aggiunto questa pastiglia da prendere dopo pranzo, che l'aiuta a far scendere la glicemia. Sicuramente è successo che con la pastiglia di ieri, cioè avanti ieri, ha fatto il suo dovere. In più con l'insulina magari non l'ha mangiato e l'ha buttata giù di botto. E appunto quello che sto dicendo io, o ha mangiato meno o ne ha fatto troppa insulina, quello è. Due sono le cose, perché già lo so io, già che c'è solo 15 anni che faccio queste cose, quindi lo so io, mi so regolare l'insulina, cioè praticamente quello che mangio io so già quanto me ne devo fare di insulina, anche se il dottore mi ha detto 22, se per dire mangio di meno ne me ne faccio 20 e va bene lo stesso, capito? Mi regolo io, se mangio un po' di più me ne faccio 25. Sì, già, no, allora quello che voglio dire io è che lei sicuramente non ha mangiato, siccome sembra addormentata, è quello, sembra addormentata. E allora niente, ne ha fatto quel problema lì, o non ho mangiato, sempre me, questi auricolari. Allora, questo mettiamo qua. Sto mica utente la stasera. Si è staccato il coso, ci. Ehi vabbè, va dentro, stabilì in culo. E niente, alla fine, come si dice? Speriamo che la curino bene, dai, perché non è un reparto. Non è un reparto bello. Boh, io lì prima curavano le bruciature, tutte queste cose qua, al sesto piano, capito? Era la dermatologia lì, adesso avranno cambiato. Già, scusa, se non si ascoltava, mi stanno arrivando dei messaggi su WhatsApp, ripeti, scusa. Ho detto che prima al sesto piano c'è la dermatologia. No, l'ospedale è nuovo già, il palazzo nuovo dell'ospedale. E c'è la tipo ginecologia, proprio un nome così simile, dai. Ho capito, ma tutti anziani sono. Esatto. Sì, ho capito. Sì, dicevo se la punta era lì, non mi viene. C'è un nome strano. Che molte volte non riesco a pronunciarlo bene, ho dovuto leggere perché è un nome strano. Già, comunque quello lì, dai. Sto pensando, aspetta. Dai, così mi ascolto dei messaggi, pensa. Ehi. Luca, finito di messaggiare. Già. Vabbè, Gavi, finito. Yes. Poi leggi il messaggio che ti ho mandato. No, già l'ho letto, ti ho anche risposto. Per carità, guarda. Per carità, già. Per carità. Ma la mia bagata. Vabbè. Sorvoliamo. Cosa stavo dicendo, Gavi? Sto provando quel microfono sempre, voglio vedere come va, perché se non va bene li cambio la capsula e buonanotte, cosa devo fare? Cosa c'entra la capsula già? c'è da umidizzare la capsula, c'è da quella membrana che c'è davanti alla capsula, quella che si mette per l'antisuffio, diciamo così, che era tutta quanta umida. Ma adesso già sta andando benissimo, non ci sono problemi. Provalo un po'. Sì, ho provato a soffiarla, la capsula, ho provato a soffiarla, capi? Con l'aria, e adesso vediamo un pochettino, capito? No, guarda, è abbastanza lineare già, è abbastanza lineare. Però rimettiglielo l'antipotomi già, perché ti fa, non è il tuo caso, però questi telefono un pochino più lontano, capito? Più che altro quella si mette per comodità, per tenerlo a 5-6 cm dalla bocca.